6. Ascolta e controlla. 1. Vestiti subito. Anche voi vestitevi subito. Noi vestiamoci più tardi. 2. Siediti al primo banco. Invece voi sedetevi qui. Noi sediamoci lì. 3. Sbrigati a fare i compiti. Voi sbrigatevi a fare colazione. Noi sbrighiamoci a uscire. 4. Alzati presto domattina. Voi alzatevi tardi domattina. Noi alziamoci con calma domattina. 5. Preparati con calma. Voi preparatevi rapidamente. Noi prepariamoci senza fretta. 6. Accomodati pure. Voi accomodatevi in poltrona. Noi accomodiamoci in salotto.